Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Torna anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in scena. Avevo avuto una buona occasione, ma non ricordo bene quando e come. Nasce nel 1976 a Voghera, il nonno paterno era un liutaio e il padre restauratore di strumenti musicali. Inizia con la musica da bambino, poi diventa geometra, cambia 3 facoltà universitarie e studia contrabbasso al conservatorio e scrive musica, sempre. Inizia ufficialmente la sua attività artistica nel 2006 partecipando e vincendo il premio della critica per il miglior testo al Musicultura Festival. A fine 2009 il primo disco, L'amore altrove, ma il contratto con la sua casa discografica viene rescisso. Nel 2011 partecipa a Marte Live, intanto apre i concerti di band e cantautori, fa da supporter, tra gli altri, anche ai Marta sui tubi. Ora il cantante del gruppo Giovanni Gulino è il suo produttore discografico. Nel 2013 è tra i primi a tentare la scommessa del crowdfunding e riesce così a registrare il suo secondo disco, Non date il salame ai corvi. Lui è Gianluca Massaroni. Il suo nome d'arte? Massaroni Pianoforti. Te lo chiedono tutti perché Massaroni Pianoforti è un'insegna, non è un nome d'arte. Sì. Ma è un'insegna vera, però. È un'insegna vera, e guarda che è nata nel 68, quando mio padre ha aperto questo negozietto di strumenti musicali. Mio padre è un artigiano. E niente, quindi questa insegna qua mi ha sempre un po' accompagnato, no, dalla nascita. E non so, ho voluto portarmela un po' sulle spalle, ecco, no? O forse nascondermi anche dietro questa insegna, come io solitamente mi nascondo dentro il negozio per scrivere. Sto sempre nella parte del retro, no? Più che davanti. Tra i pianoforti, accordare i pianoforti, sì, provarli. E trasportarli, soprattutto. hanno il loro peso. Però vabbè, quindi no, ho detto, dai, ci sta. Al di là dell'intuizione iniziale, insomma. Cioè, almeno per quel che mi riguarda c'è un lavoro dietro, per quanto riguarda la stesura di una canzone, la ricerca delle parole che poi in qualche modo vanno a braccetto con la musica o viceversa. A volte la melodia che mi suggerisce un po' la parola, a volte è la parola che mi suggerisce una melodia. Quindi l'importante è creare delle emozioni, ecco, non fare canzoni, ecco, non insegnare niente a nessuno, ma fare delle fotografie a certe cose e renderle, ecco, in musica. Andiamo con le spiegazioni semantiche, con il titolo dell'album, Non date il salame ai corvi, con il disegno del corvo con la fetta di salame, perché? Guarda, io, vabbè, questa è una frase che io da un po' di anni, moltissimi anni che ho dei quadernetti e scrivo appunti, canzoni, eccetera, eccetera, e a volte stavo rovistando, cioè un giorno stavo rovistando un po' nei quaderni passati, no? E ho trovato questa frase, non date il salame ai corvi, sinceramente non mi ricordo perché l'ho scritta, però mi ha colpito. In questo momento, forse nel periodo della mia vita un po' particolare, ci stava. Non so cosa significa, cioè uno può dare il significato che vuole, perché in questo caso adesso non vorrei dire che come dire un po' non dare per le porci, non dare te stesso a chi non se lo merita, la parte buona di te, ecco. Già all'inizio lo riconosci come un disco da cantautore. In Italia il cantautore e la musica d'autore sono un'arma a doppio taglio. Abbiamo una grossa tradizione, abbiamo una tradizione ingombrante di padri da ammazzare. Tant'è che ogni volta che esce un disco di musica d'autore tutti cominciano a dire: sembra un po' Battisti, sembra un po' Graziani, sembra. Anche a te è successo tante volte. Ma è successo in particolar modo con questo disco qua. Qualcuno non sa a chi paragonarmi. Io ho già visto una decina di paragoni, ma tra l'altro anche molto diversi tra loro. da una parte mi fa piacere, perché poi alla fine sai, quando ti paragono solo una persona dici va bene, rischi di essere l'epigono di quello, però arrivo da quella cosa lì, da quel percorso lì, mi sono innamorato, mi hanno parlato loro, e quindi in qualche modo ho assorbito anche quella cosa di scrivere in un certo modo, di vivere la canzone in un certo modo. Per le ferie d'agosto, sì lo so, me le dovrei meritare. Ma però, qual è il prezzo da pagare? Ci sono... Intanto parli anche d'amore, parli, però le donne sono distruttive in questo disco, fanno dei danni inenarrabili. Sì, sì. Sì. Sì, ma guarda, come diceva Gino Paoli, io quando sto bene con una donna non so dove infilare la chitarra, capito, in mezzo, quindi non quindi la scrittura inizia soprattutto quando c'è questo distacco, ma anche magari temporaneo, non è definitivo, e quindi ci sono questi distacchi qua, mi viene voglia di scrivere. Giusto per, ecco, per ricordarmi di quei momenti. Effettivamente sì, io scrivo molto, cioè, le mie canzoni sono comunque canzoni d'amore, cioè parlo di quello comunque. Però una canzone vera d'amore non l'ho ancora scritta, o faccio fatica. Forse perché è stata talmente bene che non è inutile scriverla, no? In tante canzoni in filigrana c'è anche il mondo di oggi, perché in Alla fermata del 33 c'è un uomo che nelle tasche non ha neanche pochi centesimi che possano bastare per un caffè. In Ferie d'agosto, insomma, ci sono le persone che cercano di raggranellare qualche spicciolo, perché almeno le ferie d'agosto le vogliamo fare, sì. Vogliamo andare al mare. C'è anche la realtà di oggi nei testi? Ma assolutamente, assolutamente. Io, vabbè, ovviamente parlo molto di me, di quello che sto vivendo io, ma io sono... ho avuto questa esperienza di lavori che sembrano che vadano avanti, poi a un certo punto spariscono, ecco, quindi non tenne neanche la sicurezza di un guadagno giorno per giorno, devi conquistartelo. E quindi, come dico, alla fermata, io a quel punto lì cosa fai? Non puoi fare nient'altro che tornare magari a casa, se c'è una casa, una famiglia. E non chiedere più al padre dei soldi, ma solo un abbraccio, ecco, come per dire: guarda, ho fallito, ho provato, ho fallito, però da qui magari ripartirò ancora per andare altrove, non lo so. E quindi c'è anche questa cosa qua, cioè, c'è questa speranza comunque, anche in quello che scrivo, di continuare a lottare per un obiettivo. Ecco, l'importante è che tu devi avere un obiettivo importante però nella vita, e non è facile arrivarci, ecco. È facile trovare una strada, ma come dice Caposella, devi farti riconoscere dalla strada. Quella è la cosa più complicata. Carlo, sono ubriaco. Carlo, mi sono lasciato. Non senti che sto urlando come un ossesso sul portone d'ingresso, schiaccio a caso i citofoni vicini, sono svegli nei loro appartamenti al sicuro, ma temo se continuo saranno guai seri. Insomma, Carlo, mi hanno minacciato. Carlo, dico le reali. Farsi largo nella musica è veramente difficile. Tra l'altro tu questo disco l'hai fatto anche con Music Razer, che è una realtà importante che fa partire anche dal basso dei progetti per farli crescere, per aiutare a farsi vedere, a farsi largo, a imporsi. Lavorare adesso, cercare di lavorare al mondo della musica è quasi una follia. Sì, assolutamente. Ma sì, più che altro farsi riconoscere, avere una propria identità, cioè davvero tanto. Ci sono tante, come si dice, domande, no? Capito? Adesso con internet tutti quanti scrivono, fanno, si espongono, e secondo me la gente poi non sa più dove guardarsi, perché ci sono tante proposte valide, tra l'altro. E la differenza, secondo me, sta nel seguire, nel far crescere, nel coltivare certe proposte. Non puoi in un anno e mezzo, cioè, sperare che uno faccia il cosiddetto botto se poi non gli stai dietro, o se dopo un anno tu guardi un altro progetto. Io parlo perché i botti ormai sono usa e getta. E infatti io parlo proprio più che altro degli addetti ai lavori, coloro che dovrebbero prendere l'artista se ci credono, non perché il mercato dice adesso funziona questo. Questo è sbagliato. Capisco che è molto più facile puntare su degli artisti, dei progetti che in qualche modo sono già riconosciuti con queste trasmissioni di talent show, che tra l'altro io non è che sono contro, anzi, però ci sono moltissimi interpreti e gli autori, e quindi vorrei dire, lavoriamo molto sulle canzoni, non buttiamole via. Adesso cosa succederà? Cosa vorresti che succedesse? Vabbè, adesso mi piacerebbe che le canzoni arrivino, ecco, poi alla fine alle persone, perché poi è il fine di tutto, no? Se no metterei solo per me, quindi non prendiamoci in giro. Se queste canzoni piacciono, ecco, mi rendono anche felice, perché cosa meno inizio anche un po' a girare, a suonare, che è quello che poi mi è mancato in tutti questi anni. Io ho bisogno di buttare fuori altre canzoni, insomma, ho iniziato a scrivere da giovane, siamo sempre... mi sono sempre pensato sulla scrittura più che sull'andare in giro a farle ascoltare, no? Quindi ho tante cose. Hai cassetti pieni. Pieni. Armati. Arx Capuzzini, garage, tutto pieno veramente di canzoni. E fortunatamente ho trovato anche un po' la chiave, perché sai, tu puoi avere il cassetto pieno, ma se non c'è la chiave da aprirlo, te la tieni lì dentro. Adesso mi sembra di aver trovato questa chiave. Passepartout, non so. Quindi adesso vediamo di tirarle fuori, ecco, nel giro di un anno, due, vediamo. Ci stiamo lavorando. C'è questa voglia di buttare fuori canzoni, ecco. Ed è tutto per questo Voci in Scena, oggi con Massaroni Pianoforti. L'appuntamento è per lunedì, alla stessa ora.